Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Estate, colori chiari. Un semplice ed efficace accorgimento che noi tutti utilizziamo per soffrire meno sotto il sole estivo. Eppure sono moltissimi gli edifici, soprattutto fabbriche, capannoni, supermercati, coperti addirittura da uno strato di bitume nero che si arroventa sotto il sole estivo e surriscalda l'edificio sottostante, con il risultato che il consumo di energia elettrica per il condizionamento schizza verso l'alto. Pensate soprattutto agli edifici larghi e bassi, quindi quelli molto estesi con una vasta superficie esposta al sole, come la maggior parte degli edifici appunto produttivi e dei centri commerciali. Ma pensate anche agli ultimi piani di molti condomini e anche alle tantissime mansarde abitate. Ebbene, in tutte queste circostanze il problema può essere davvero serio. Basta una mano di vernice bianca per migliorare un po' la situazione. Tuttavia, come potrete immaginare, c'è di meglio. Ne parliamo con Alberto Muscio, ricercatore dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Buonasera, Muscio. Buonasera, dottor Melis. Senta, mi tolga subito una curiosità. A che temperatura arriva una di quelle guaine di bitume che si vedono in giro, quelle nere? Può arrivare tranquillamente a 80 gradi, al punto che arriva anche a liquefarsi. Addirittura a liquefarsi. E non so, un tetto di metallo, la lamiera per esempio? Sì, poco meno, ci si possono cuocere sopra le uova, arriveremo a 70. D'accordo, ecco. Senta, proviamo a spiegare un po' come funziona il bilancio energetico di un tetto, di una copertura, quando si trova sotto il sole. Che cosa succede? È molto semplice. Noi abbiamo che la radiazione solare incide sulla copertura. Una parte viene immediatamente riflessa verso il cielo. Quello che non viene riflesso viene assorbito. La parte assorbita viene per una frazione riemessa verso l'atmosfera esterna per convezione, cioè lo scambio termico con l'aria, e per irraggiamento nell'infrarosso. Ecco, per dare un'idea, il calore del fuoco che noi sentiamo quando ci avviciniamo a un focolare sono gli infrarossi che ci investono. Non è che il fuoco all'aperto non è che scaldi l'aria, però noi sentiamo lo stesso il calore, no? Sì, è emissione propria della superficie legata al fatto che si trova a temperatura molto più elevata di quello che c'è intorno. Perfetto, mentre se noi prendessimo in mano un pezzo di brace ci bruceremmo subito, quella invece è conduzione termica. Quella è conduzione. Ecco, è conduzione. Così abbiamo spiegato. E tutti e due questi meccanismi sono copresenti sulla superficie. Però è una cosa che molti non sanno, è che l'irraggiamento è dominante sulla convezione, c'è un rapporto di 2:3:1. Quindi questi raggi infrarossi che emette l'oggetto trasportano più calore di quanto non ne venga dissipato attraverso la conduzione e il contatto con l'aria. È esattamente, questo. Almeno perfetto. Se l'aria è sostanzialmente ferma, se tira molto vento è chiaro che poi diventa importante anche la convezione. E quindi è evidente che più dissipa questo tetto più bassa sarà la sua temperatura sotto il sole. Abbiamo già detto che una mano di vernice bianca, che evidentemente riflette molto bene la luce, migliora la situazione. Però esistono vernici con proprietà molto speciali. Di che cosa si tratta? Sono quelle vernici che ricadono nella categoria dei cool roof o dei trattamenti cool roof, che si basano sul fatto che la radiazione consta soltanto del 40% circa del totale. La radiazione del sole per un 40% è visibile, il resto sono altri raggi che non vediamo. Sì. Esattamente. Ecco, io se vedo il colore di una superficie, io so soltanto cosa succede nel visibile, quindi una superficie nera vuol dire che sta assorbendo tutto il visibile, una superficie bianca che sta riflettendo quasi tutto il visibile, ma non so che cosa fa nell'infrarosso, dove ad esempio ho oltre il 50% dell'energia solare. Le vernici a cool roof sono vernici che hanno una capacità di riflettere non solo la radiazione visibile, ma anche quella nell'infrarosso e nell'ultravioletto. D'accordo, d'accordo. Quindi dissipano meglio il calore. Esatto. Ecco, e quindi utilizzando una di queste vernici cool roof, quanto si risparmia sul condizionamento, evitando il surriscaldamento? Ecco, per esempio, che temperatura raggiunge un tetto trattato in questo modo? Un tetto trattato in questo modo può rimanere a temperature pochissimo superiori al valore ambiente, arrivare a non più di 40 gradi, al punto che moltissimi edifici tratti in questo modo non hanno bisogno di condizionamento. Addirittura. E quindi addirittura non ne hanno bisogno, se no un risparmio ragionevole in un supermercato probabilmente ce ne sarà sempre bisogno, no? Però quanto si risparmia? E dipende da come è fatta la copertura, ma ci sono casi in letteratura con risparmi fino a oltre il 70%. Ah, insomma, quindi un dato esatto. Veramente notevole. Ecco, senta, questi tetti sono proprio di un bianco abbacinante. Basta guardare una delle tante immagini che circolano sul web rispetto a questi cool roof. Tanto che c'è chi ha pensato di sfruttare questo effetto in modo un po' innovativo. Certamente, qualcuno ha pensato di utilizzare questi tetti per montarci sopra dei campi fotovoltaici, sfruttando in particolare dei pannelli fotovoltaici in grado di raccogliere non solo la radiazione diretta, ma anche quella diffusa, che quindi incide sulle superfici circostanti il pannello fotovoltaico e quindi ritorna sul pannello fotovoltaico se la superficie è riflettente. Quanto si guadagna in produzione elettrica con questi sistemi? Dipende da come sono fatti i pannelli, da pochi punti percentuali fino anche oltre il 15%. Ci sono alcuni pannelli che sono particolarmente predisposti e quelli a geometria tubolare per questo tipo di applicazioni. D'accordo, perfetto. Senta, queste vernici, ci sono varie soluzioni. Come avviene la posa e la manutenzione e qual è il costo, insomma? Si tratta fondamentalmente di vernici, ma anche di guaine o altri qualunque tipo di rivestimento si possa pensare per la superficie di un tetto. Le problematiche di posa sono esattamente le stesse dei materiali tradizionali, quindi una verniciatura o la posa di una guaina richiede la pulitura della superficie e dopodiché la deposizione in vari modi a seconda della tecnica particolare richiesta dal materiale. Costo? Per metro quadro più o meno? Il costo intrinseco è uguale a quello di una guaina o una vernice standard. Quello che si paga di più di solito è il lavoro di ottimizzazione e certificazione delle proprietà. Quindi se uno riesce a contestualizzare l'intervento nell'ambito di una ristrutturazione generale edificio o un rifacimento della copertura, il sovraccosto è minimo, parliamo di pochi euro per metro quadro. Per il momento ci fermiamo qui, ma con il dottor Muscio torniamo lunedì per passare, per così dire, dal bianco e nero ai colori, perché è chiaro che capannoni e supermercati non esauriscono il discorso, vero Muscio? Vero, certamente, anzi. Allora, a lunedì.